Radio 24 Reportage. Piloti del porto, gli angeli custodi delle navi, di Andrea Ferro. Un quarto, siamo pronti, tre quarti d'ora da adesso. Che fate, mi confermate o no? Dipende da voi, se confermate per le 11.15, 11.15 pilota via mare, cambio. Ok, allora confermo, 11.15, vi aspetto. Benissimo, comandante, a dopo. Voci alla radio, voci da terra e dal mare, uomini e navi. Navi al capolinea o alla partenza dell'ennesimo viaggio, enormi giganti abituati a spazi immensi, che ora hanno bisogno di un ammaestratore capace di infilarli tra i pertugi, pronto a sfidare forze e correnti ostili. Un ammaestratore che va all'abbordaggio con una pilotina, in proporzione grande come una libellula, che si arrampica lungo scalette di corda, bonaccia o tempesta, non importa. Questa è la storia di un mestiere antichissimo e degli uomini che lo hanno scelto sull'onda lunga della tradizione. Dalle golette a vela alle porta container da 160.000 tonnellate. Sono i piloti del porto in Italia e nel mondo. Nel nostro paese in tutto se ne contano 240. A Genova lo scalo più grande 24. In un giorno di sole e di tramontana li raccontiamo da qui, all'ombra della lanterna che nei secoli ha illuminato rotte e orizzonti. Questa è una cronaca diretta di lavoro e di abilità salmastra, di intuito, di scuola, di tempi e spazi stretti. Ci toglie un'attacca. Un'attacca, Prora. Siamo a metà mattinata di una giornata feriale, Porto di Genova. Siamo nella sala operativa dei piloti. Vedo tanti schermi. Ecco, oggi quante navi movimenterete? E oggi è una giornata non troppo trafficata. Avremo una trentina di movimenti circa, fra arrivi e partenze. E questo qui è un po' il nostro punto di controllo, da cui gestiamo il traffico in entrata e in uscita e in movimento. Nel margine di sicurezza adeguati, un po' una corsa contro il tempo, voi dovete praticamente un po' tarare tutta una serie di fattori per garantire il traffico. Sì, assolutamente sì, la gestione del traffico comunque è una cosa piuttosto complessa perché si riflette su parecchi operatori, quindi dai terminalisti ai rimorchiatori, ai servizi, quelli che sono i servizi tecnico-nautici, quindi ormeggiatori eccetera. Noi in base a tutte le esigenze che abbiamo, la posizione finale della nave dove sarà, quindi una posizione più interna rispetto all'imboccatura piuttosto che esterna, e allora in base a tutte queste cose si crea una precedenza per le varie navi. Forecast Genova Pilots, good afternoon, go ahead. Very good, Captain. So in half an hour from now, pilot will board you, shoreside, over. E ora ci imbarchiamo su una delle sei pilotine del porto. Si chiama Grigua, in genovese vuol dire lucertola. A bordo con me un pilota, il comandante Baffo, e il pilotino Clerici, cioè l'uomo che governa la pilotina. Ci dirigiamo verso Calata Canzio. Il comandante Baffo accompagnerà la petroliera Basiluzzo fuori dal porto. Andrò a bordo, salirò a lato mare e ci saranno gli ormeggiatori in banchina e poi insieme al comandante inizieremo l'esormeggio, dopodiché molleranno tutti i cavi e poi ci allontaneremo dalla banchina e procederemo verso l'uscita. Un pilota più o meno fa 800.000 manovre all'anno, una roba di questo genere? Sì, esatto. Ah, le piloti. Comandante Colombo Giacone, a Rocciaioli. Siamo a bordo della Grigua. La Grigua, un gommone super veloce. Ecco, lei ha appena accompagnato il pilota Baffo a bordo. È stato un avvicinamento abbastanza semplice perché la nave era ancora ferma. In realtà è molto più difficile il suo lavoro quando si tratta di approcciare una nave in movimento, magari in condizioni meteo marine sfavorevoli. Ovviamente sì. Sì, è un po' più difficile, bisogna stare attenti, bisogna riuscire a cogliere l'attimo giusto sia al pilotino che al pilota quando sale. La tecnica è avvicinarsi con calma, con molta prudenza e aspettare il momento giusto per far salire il pilota nella massima sicurezza. Perché poi non devono esserci dei movimenti che possono compromettere quindi l'incolumità del pilota nel momento in cui sale sulla biscaggina? Ovviamente sì. E la biscaggina lo spieghiamo cos'è? È una scala a corda che è fatta a pioli di legno dove il pilota sale e va a bordo della nave. Tra pochi minuti vediamo, scenderà il pilota. Quando lo vedo lì in cima alla scala mi ci avvicino e lo sbarchiamo in sicurezza, come sempre. Ecco, ci siamo appena affiancati alla nave, quindi questione di qualche istante, ed ecco, sta scendendo dalla biscaggina ora sulla scaletta interna. Il comandante Baffo è tornato sulla pilotina grigua. Comandante, tutto a posto direi, no? C'è un po' di vento che ci allargava, comunque la nave è anche dotata di due thruster che ci è tenuta in banchina sino a quando non abbiamo alleggerito i cavi, tutto in sicurezza, quindi direi tutto a posto. Sbarchiamo e torniamo nella sede dei piloti. Andiamo a trovare il capo. Si chiama John Gatti, ha 50 anni e origini svedesi. Nella storia del porto di Genova nessuno più giovane di lui ha mai ricoperto questo incarico. È un mestiere che si è reso necessario proprio dagli ostacoli, dai problemi e dai pericoli che si incontrano in acque ristrette, quindi nei porti, e perciò fin dall'antichità il comandante, come avviene anche oggi, che non conosce le realtà locali e trova la necessità e la risoluzione a molti dei suoi problemi nelle persone che hanno queste conoscenze, quindi parliamo di fondali, parliamo di correnti, parliamo di venti, di traffico locale ai nostri giorni, e tutto questo è un problema che si avverte oggi come si avvertiva anche nelle antichità. Ma come si diventa piloti? Come sentiremo, è una lunga navigazione. Quando si realizza una vacanza in un porto, quindi un pilota che va in pensione, chiunque abbia i requisiti per poter partecipare, quindi anni di navigazione, tonnellaggi delle navi, un certo grado in carriera e quell'età compresa tra i 28 e i 35, può partecipare a questo concorso. Uno si presenta con un punteggio che è dato dagli anni di navigazione in più rispetto a quelli richiesti, al grado, eccetera, eccetera, e poi sostiene un esame. Questo esame qua, la media dei punteggi acquisiti con questo esame, vanno a fare media con quello di entrata, e uno finalmente, il vincitore su tutte queste domande, diventa allievo pilota. Quindi dopo essere diventato allievo pilota, resta con questo ruolo per un anno, e il suo compito è quello di imparare a manovrare, quindi affianca al pilota più anziano tutti i piloti, vede come si manovra, impara, comincia a mettere le mani, e per un anno cerca di carpire e di rubare i segreti ai piloti più anziani. La storia secolare dei piloti del porto di Genova è segnata da una data, 7 maggio 2013, è sera. Una porta container in manovra urta e abbatte la torre di controllo. 9 morti. La ferita non si rimarginerà più, ma da quel giorno i piloti reclamano vanamente che la torre venga ricostruita. C'è un progetto di Renzo Piano, ma al momento tutto è fermo. La torre piloti, di cui parlo sempre, non è un vezzo, non è un capriccio per avere un qualcosa di rappresentativo e di bello. È proprio la necessità di poter vedere le cose in maniera diretta, perché la strumentazione purtroppo non ti dà quella profondità, quegli elementi che servono per poter condurre il traffico, dirigerlo. Al di là delle tecnologie bisogna guardare di fronte la realtà. Sì, purtroppo c'è tantissimo traffico locale. Noi abbiamo la Marina Fiera, abbiamo Pesto e tutto il Molo Vecchio, abbiamo tantissime realtà di traffico di yacht, anche di grosse dimensioni. Abbiamo bettoline, rimorchiatori, draghe, cioè il porto di Genova è trafficatissimo. E lì la tecnologia non ti può aiutare, non c'è l'AIS, non abbiamo di radar. Ci vuole una visione diretta, con navi che entrano e che escono dalle calate a pettine senza poter vedere quello che sta succedendo nel canale. È pericoloso, estremamente pericoloso, quindi un occhio diretto ti aiuta. Ma torniamo sulla pilotina grigua. Altri piloti, Pignatelli e Bongiovanni, altre navi da accompagnare o andare a prendere. Allora, prepara pure un rimorchiatore per l'eurocargo d'arrivo, grazie. Comandante, il pezzettino arancione sull'imboccatura. Molto bene, molto bene. Grazie. Tutti, comandante. Allora, appena comunicato con i rimorchiatori? Sì, ho appena richiesto un rimorchiatore, così come da richiesta comandante della nave. Perché le condizioni del vento consigliano l'aiuto di un rimorchiatore, in sostanza. Infatti, i mezzi della nave non sono sufficienti. Quindi con la pilotina grigua abbiamo appena staccato e stiamo dirigendoci verso l'imboccatura del porto per andare a prendere questa nave che si chiama? Eurocargo Livorno. Allora, stiamo andando a prendere questa nave, come abbiamo sentito si chiama Eurocargo Livorno. A bordo della pilotina c'è un altro giovane comandante che ora mi insegna a capire cosa ci sta dicendo il vento. Lei ha preso come riferimento alcuni punti, me li spiega? Sì, innanzitutto oggi l'intensità del vento la possiamo anche intuire dalle cosiddette pecorelle che sono a pelo d'acqua. Il mare comincia già a schiumare, quindi siamo sull'intensità di 20-25 nodi. Quindi già una velocità di tutto rispetto che implica cautele ben maggiori rispetto a una giornata senza vento. e poi il nostro riferimento visivo che abbiamo è la bandiera del Matitone. Quello è il punto di riferimento, questa bandiera vi dà tante informazioni. Esattamente, perché non ha bisogno di nessun collegamento internet, prende di giorno e di notte e ci dà l'intensità del vento e la direzione. E sulla pilotina Grigua, a pendolare tra navi in arrivo e in partenza, nuovi incontri. Il comandante Aste è il veterano del gruppo. La nave dalla quale è appena sbarcato, SDS Green, la manovra è stata abbastanza semplice? E diciamo condizioni normali, un po' di vento, però la nave era carica, quindi da carica subisce meno l'influsso. Abbiamo manovrato in spazi abbastanza stretti, ma in sicurezza, adesso la nave procederà per Barcellona. E lei è definito il Messi dei piloti genovesi? Sì, ai colleghi piace molto scherzare. Poi il ritorno alla base. A turno è l'ora di pranzo. Cosa c'è di buono oggi, signor Angela? Ho fatto la pasta con i frutti di mare misti e le seppie con i carciofi. Bisogna alimentarli bene questi piloti. C'è una dieta particolare del pilota di nave? No. Mangiano sano, bene, senza esagerare. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.